Scatenate d'atti di violenza hanno minato il fragile equilibrio su cui si regge il governo Papandreou. Il premier ha annunciato ieri sera un rimpasto. Poco prima di presentarsi di fronte alle telecamere della TV di Stato, Papandreou aveva chiesto l'aiuto delle opposizioni per un governo di unità nazionale, pronto anche a farsi da parte. Ma la destra ha rifiutato, chiedendo elezioni anticipate. Ironia della sorte, il premier socialista si trova a fronteggiare una crisi esplosa sotto la guida dei conservatori. Sul nuovo esecutivo Papandreou dovrà chiedere la fiducia, un voto quasi disperato. Per rendere più visibile la svolta, il primo ministro è disposto a sacrificare il titolare delle finanze, il principale artefice delle politiche di risanamento. Un sacrificio necessario sull'altare della piazza, che ieri ha fatto sentire la propria voce contro i tagli e le privatizzazioni. Tagli necessari per lo sblocco di 12 miliardi, la quinta parte del prestito concesso da Unione Europea e Fondo Monetario e sulla quale manca l'accordo. La BCE spinge per una ristrutturazione del debito facendo affidamento all'adesione volontaria di chi ha titoli greci. Berlino invece vorrebbe forzare la mano, soprattutto ai privati, perché fanno sapere non si possono lasciare gli utili alle banche e le perdite ai contribuenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cosa potrebbe cambiare un rimpasto? Cosa c'è in gioco? Per il salvataggio della Grecia ci sarà un intervento in due tempi. Domenica prossima bisognerà dare il via libera alla tranche da 12 miliardi. L'11 luglio decidere sulla partecipazione dei privati al secondo intervento di aiuto. Così ha detto questa mattina il commissario europeo Olli Rehn, lanciando un appello ai 27 per superare le attuali divisioni. Tensioni intanto, dicevamo, sui mercati che investono anche l'Italia e portano a 200 punti la differenza con la Germania per i titoli di Stato. Il premio di rendimento che i BTP italiani pagano rispetto ai bond decennali tedeschi è volato a oltre 200 punti base, segnando i massimi dallo scorso 11 gennaio. Lo spread decennale viaggia a livelli record per la Spagna, per la Grecia naturalmente, per il Portogallo e l'Irlanda. E allora a essere tirata in ballo, come sempre, alla fine è la Germania. Io saluto Beda Romano. Sì, buongiorno. Allora, l'appuntamento principe è domenica prossima, quando bisogna dare il via libera, dicevamo, alla prima tranche di aiuti alla Grecia. Poi bisognerà decidere cosa fare per il seguito. Olli Rehn ha chiesto ai 27 di superare le attuali divisioni e il facile capire che l'appello era soprattutto alla Germania, Beda. Sì, la Germania sta giocando una partita molto pericolosa, evidentemente, perché il governo ha deciso di imporre ai suoi partner e alla Commissione e alla Banca Centrale Europea il coinvolgimento degli investitori privati in questo secondo pacchetto a favore della Grecia. Ha deciso di farlo il governo federale perché si trova ad avere una maggioranza democristiana liberale abbastanza debole su questo punto. Molti liberali e anche una fetta consistente dei cristiano-sociali vorrebbero assolutamente che i privati partecipassero in un modo o nell'altro. Il problema è come farli partecipare. La Banca Centrale Europea è pronta ad accettare una partecipazione volontaria degli investitori. La Germania avrebbe il desiderio di fare qualcosa in più. Ho l'impressione che in queste ultime ore la Germania sia un po' tornata indietro sui suoi passi. Si rende perfettamente conto che un fallimento greco sarebbe estremamente negativo per la zona euro e per l'economia tedesca inevitabilmente, perché questo scatenerebbe un effetto contagio e la prima economia a farne le spese sarebbe probabilmente la Germania. Quindi siamo in una fase di trattative. Peraltro poco fa c'è di nuovo un altro intervento sempre di Olli Rehn che ha commentato: non abbiamo piani B, quindi o si fa così o non se ne esce. Sì, evidentemente siamo di fronte a un braccio di ferro. Olli Rehn sta dalla parte Banca Centrale Europea, Jean-Claude Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, cerca di mediare tra la BCE e la Germania. La Germania può contare sull'appoggio di alcuni paesi, l'Olanda, la Finlandia, l'Austria per esempio, quindi siamo di fronte a un braccio di ferro. Ho l'impressione che ci sarà un momento importante, sarà domani, quando il presidente Nicolas Sarkozy andrà a Berlino per incontrare il cancelliere Merkel. Forse quella sarà l'occasione per trovare un compromesso franco-tedesco che possa essere accettabile sia agli altri partner europei che alle istituzioni europee, in particolare alla Banca Centrale. Poi naturalmente vedremo come si svolgerà il dibattito all'interno dell'Eurogruppo. Come e se si troverà l'accordo. Grazie a Beda Romano. Parlavamo di BCE e la BCE è intervenuta oggi anche sull'Italia. Ha rivolto un invito a specificare interventi sul programma di risanamento dei conti pubblici. Il periodo sotto esame è il 2013-2014 per un importo cumulato, dice la BCE all'Italia, pari circa al 2,3% del PIL. E allora con sul tavolo anche questo nuovo invito della BCE, tra circa mezz'ora si riunisce il Consiglio dei Ministri. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, Consiglio dei Ministri tra breve a Palazzo Chigi, dove si discuterà dei rimpatri dei clandestini e probabilmente, anche se non all'ordine del giorno, dell'emergenza rifiuti a Napoli. La tensione resta alta tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, che ieri si sono incontrati in aereo di ritorno da Milano. Cercatevi un altro ministro, avrebbe detto Giulio Tremonti alla cena dello Stato Maggiore leghista ai Parioli. Berlusconi però è convinto che la Lega non spezzerà l'alleanza, ma nel frattempo c'è attesa per la verifica di governo. Il Presidente del Consiglio prenderà la parola in aula alla Camera alle 11 di mercoledì prossimo, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, e non si sa ancora se ci sarà un voto di fiducia. La maggioranza lo porrà solo se l'opposizione presenterà un proprio documento. Nel frattempo, prima del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi incontra Palazzo Grazioli, Angelino Alfano e Gianni Letta per un nuovo esecutivo con un'agenda dettata dal governatore di Banca Italia Mario Draghi, e invece il presidente della Camera Gianfranco Fini sicuro che Berlusconi collasserà. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Tremonti, abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale, siete d'accordo? Era questa intanto la domanda che vi abbiamo rivolto questa mattina, Mattino 24. Ha risposto di sì il 70% dei nostri ascoltatori, abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale, no il 30%. E oggi sono arrivate intanto anche le stime Istat che riguardano il carrello della spesa degli italiani. Carrello della spesa ben più costoso a maggio rispetto al mese precedente. A renderlo noto è l'Istat, che ha fornito i dati sull'inflazione del mese scorso. I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori sono aumentati dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,5% su base annua, toccando il massimo livello degli ultimi 3 anni. A trainare il costo della spesa verso l'alto sono i prezzi degli alimentari, che aumentano rispetto ad aprile dello 0,7%, con una nota dolente per la frutta fresca, i formaggi e caffè e zucchero, che oggi costano quasi il 10% in più rispetto all'anno scorso. Da nord a sud, le città in cui i prezzi registrano gli aumenti più elevati sono Aosta e Bari, entrambe sopra il 3,5% rispetto al 2010. Le variazioni più modeste riguardano invece Trento e Campobasso. La buona notizia è che il tasso di inflazione generale registrato a maggio è rimasto lo stesso di aprile, 2,6%. Quella cattiva è che si tratta ancora del dato più alto registrato dal novembre 2008. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Radio 24 replica il ministro Renato Brunetta, dopo la polemica con i precari, ha risposto così questa mattina. Ho dato un giudizio sulle 4 persone, quelle 4 persone che sono venute non per ascoltare il convegno che era sull'innovazione, non per ascoltare il sottoscritto che parlava dell'Italia migliore, che l'Italia dell'innovazione, dell'Italia dei tanti giovani che si impegnano nell'innovazione, nei parchi di ricerca scientifici, eccetera, eccetera, che questo è stato il senso del mio discorso. A questi non interessava nulla di tutto ciò. Avevano già pronti gli striscioni, come si vede dal video, eccetera, eccetera, e non ascoltavano, perché poi io alla fine, mentre uscivo, ho cercato di interloquire, come si vede sempre dal video, una persona, ma questi solamente insultavano. E quella è l'Italia peggiore. Andiamo in Francia ora, dove è rispuntata un'emergenza per E. coli. Sono 6 i bambini ricoverati a Lille, nel nord della Francia, a causa di un'infezione alimentare legata al batterio E. coli, che però non avrebbe nulla a che fare con il batterio killer che nei giorni scorsi ha ucciso 38 persone, 37 solo in Germania. I bambini, le cui condizioni stabili vengono definite gravi ma non preoccupanti dai medici, avrebbero consumato hamburger surgelati venduti in un ipermercato Lidl, che ha già ritirato i lotti dal mercato. La malattia si è manifestata con una forte diarrea emorragica. 3 dei bambini sono attualmente in dialisi. La società che in Francia produce gli hamburger sospettati di essere all'origine dell'infezione ha annunciato che la carne proveniva dalla Germania, dove è stata macellata prima di essere importata in Francia. Ieri è stata inoltre annunciata la morte di un bambino di 2 anni avvenuta ad Hannover questa settimana. Si tratta della vittima più giovane provocata dal batterio killer. Dopo settimane di incertezze, le autorità tedesche venerdì scorso hanno identificato l'origine della contaminazione nei germogli di vari legumi, tra cui la soia soia provenienti dall'azienda biologica Gaternorf nel nord della Germania, che è stata chiusa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuove potenti esplosioni sono state udite nella notte a Tripoli, nell'area del bunker del leader libico Gheddafi. Intanto la NATO respinge le accuse del regime di aver ucciso 12 civili in un raid ieri a Kikla, sud della capitale. Il figlio del Rais, Saif al-Islam, intervistato dal Corriere della Sera, propone il suo piano per uscire dal conflitto. Elezioni con osservatori internazionali, non ho dubbi, dice, che vincerebbe mio padre. Sentivamo dei rifiuti a Napoli, si torna a parlarne oggi in Consiglio dei Ministri. Intanto la Commissione europea si è detta ancora molto preoccupata della situazione, ma ha detto di non avere ancora assunto decisioni sulla procedura di infrazione. Proprio per oggi il neosindaco ha annunciato una svolta, quale per ora non si sa. Un provvedimento rivoluzionario, così Luigi De Magistris ha annunciato la prima delibera da sindaco di Napoli, prevista per oggi pomeriggio. Il tema, manco a dirlo, la spina nel fianco della città da 18 anni a questa parte, i rifiuti. L'ex PM ha già annunciato in campagna elettorale il suo obiettivo, 70-80% di raccolta differenziata e niente inceneritori. La delibera dovrebbe spiegare come farà e soprattutto dove prenderà i fondi. Una grossa parte dovrebbe venire dall'Unione Europea, 300 milioni di euro ancora congelati a causa delle procedure di infrazione aperte nel corso degli anni. Ma a preoccupare è anche il no di due giorni fa del ministro Calderoli al trasferimento dei rifiuti campani in altre regioni. De Magistris ha fatto sapere che per quel che concerne le competenze del comune ha già un piano B e anche un piano C. Intanto i napoletani aspettano per vedere se sarà vera rivoluzione. Romolo Napolitano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24. Berlusconi in aula mercoledì per la verifica. Il premier: non ho paura di nessuno. Atene, tensione in piazza e sui mercati. Papandreou tenta la via del rimpasto. Bruxelles: non c'è un piano B. Mangiano hamburger 6 bimbi gravi in ospedale in Francia. Al-Qaeda un nuovo leader e al-Zawahiri il braccio destro di Bin Laden. È ormai ufficiale, il premier Silvio Berlusconi sarà in aula mercoledì per la verifica parlamentare chiesta dal capo dello Stato, con l'incognita sul possibile voto di fiducia. Il presidente del Consiglio prenderà la parola a Montecitorio alle 11, ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo. Berlusconi, che intanto questa mattina ha incontrato a Palazzo Grazioli il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, il ministro della giustizia e il segretario del PDL Angelino Alfano, oltre all'avvocato Nicolò Ghedini, prima di recarsi a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Al centro dei colloqui ci sarebbe stata anche la vicenda P4. Con l'arresto dell'imprenditore Luigi Bisignani tornano a galla logge segrete e passaggi di informazioni. Nelle carte ci sono diversi elementi e allora torniamo a fare il punto. Di lui gli imprenditori avevano paura e senza esitazione dicono a verbale che lui utilizzava le sue relazioni con ambienti giudiziari per andare sotto, si legge, e avanzare richieste. Alfonso Papa, il deputato del PDL per il quale pende una richiesta di autorizzazione all'arresto, era una persona da cui guardarsi, secondo più testimoni, che ai magistrati hanno riferito delle richieste di soldi per avere una donna da mantenere, spiega uno, delle pressioni ossessive per avere una casa a Roma, racconta un altro, delle indagini su una denuncia svolta in privato da forze dell'ordine e istituzioni. In cambio, il parlamentare prospettava appalti e soprattutto, scrive il GIP, proponeva di risolvere i problemi giudiziari, sicuro che loro pendono dalle mie labbra, come raccontava lui stesso al telefono. E quei problemi, l'ex magistrato, che per diventare politico chiese l'aiuto anche di Luigi Bisignani, contava di risolverli con le truppe che ha a disposizione, come riferisce proprio una toga, Umberto Marconi. Marconi è convinto che Papa volesse tramare soprattutto contro il sottosegretario alla giustizia Caliendo e per questo, secondo il racconto del suo ex autista, aveva annunciato di voler fregare Pasquale Lombardi, l'uomo che sussurrava ai giudici, secondo l'inchiesta dell'anno scorso sulla P3. Dopo aver distribuito soffiate, informazioni e pure pettegolezzi, Papa alla sua fonte confidenziale, il carabiniere La Monica, aveva chiesto anche di fare accertamenti su questa indagine che lo riguardava col capo degli ispettori Miller. E proprio quest'ultimo ricostruisce i contatti del politico pure con l'ex capo del Sismi Pollari, oltre ad altri vertici delle forze dell'ordine. Ed è notevole, scrive il GIP, il numero di persone delle istituzioni citate ma non indagate. Un elenco lungo, come i 10 anni di vita a Napoli che il carabiniere, che era la sua fonte, voleva svelare, salvo poi preferire rifugiarsi in Senegal. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Fecondazione assistita in regime di LEA. I livelli essenziali di assistenza, quindi a carico del Sistema Sanitario Nazionale per le donne fino ai 50 anni. Succede in Veneto, a deciderlo è stata la giunta Zaia, che ha alzato il limite fissato invece a 43 anni dal gruppo tecnico dei medici specialisti. Innalzato il limite d'età, restano altri limiti, tra cui il massimo di 65 anni per il futuro padre. Già in vendita in Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, potrebbe arrivare intanto anche in Italia la pillola dei 5 giorni dopo. È arrivato il primo sì da parte del Consiglio Superiore di Sanità e naturalmente è già polemica, come lo fu per la pillola del giorno dopo. Il ministro Fazio ha detto che non si tratta di pillola abortiva. Questa volta allora di cosa si tratta? La domanda la giro ad un ginecologo, un esperto italiano, Carlo Bulletti. Buongiorno. Buongiorno. Di cosa si tratta allora questa volta? Che cos'è? Si tratta di un farmaco di per sé di molecola non nuova che si inserisce nei farmaci steroidei, molto simile a quella precedente, levonorgestrel, ma diversa perché ne allunga la possibilità di utilizzazione, ora utilizzabile nei primi 5 giorni dal rapporto non protetto, dal fallimento di una contraccezione precedente, ed è commercializzata con nome in molti altri paesi con nome di Elawan. Ha la capacità di impedire 3/5 delle gravidanze che si sarebbero prodotte con appunto rapporti non protetti. È stata determinata e sancita la sua sicurezza da un lavoro recente nel gennaio scorso di Lancet, ormai commercializzata nella stragrande maggioranza dei paesi in Europa, mi riferisco Inghilterra, Francia, Germania e anche negli Stati Uniti, approvato dalla Drug and Food Administration negli Stati Uniti la scorsa estate e anche dall'EMEA, cioè l'autorità europea. Ora è all'attenzione dell'AIFA, della nostra agenzia del farmaco. E quindi quanto ci vorrà perché arrivi anche in Italia? Io credo che ci sia nell'ambito dei 3 mesi ci sarà necessario dare una risposta. Credo che sia, al di là di tutti i passaggi che vengono fatti nelle varie diverse autorità, credo sia difficile impedirne la commercializzazione dal momento che noi come paese abbiamo già dato l'approvazione in ambito di EMEA. Se vogliamo essere paese che partecipa all'agenzia europea, non possiamo poi avere un atteggiamento dissociato come Agenzia Italia, io credo. E naturalmente poi tutte quelle che saranno le polemiche di altro tipo non riguardano voi esperti, però invece le volevo girare anche un'altra domanda, perché ha sentito prima, abbiamo raccontato che il Veneto ha deciso di dare assistenza a carico del Sistema Sanitario Nazionale per la fecondazione assistita alle donne fino ai 50 anni. Le chiedo, è così frequente ormai madri fino a 50 anni? No, io credo che questo, io personalmente avanterei un motivo di qualche ulteriore riflessione nazionale, perché sulla base della legge attuale e di una forma di federalismo monco, cioè a dire noi tutti paghiamo per tutti in Italia, allargare in una regione invece che in altre la possibilità di adire ad una gravidanza mediante fecondazione assistita in un annovero di età dove intorno ai 44 anni all'interno della coppia la possibilità di avere un bimbo in braccio è dell'1,4%, almeno secondo i dati del CDC di Atlanta negli Stati Uniti, mi sembra quantomeno troppo costoso da riversare su tutta la collettività. Consideri che a 45-46 la percentuale scema ancora fino a un livello quasi zero, cioè noi paghiamo per procedure che hanno una efficienza pari allo zero. Io credo che questo sia un qualche cosa sulla quale il paese Italia deve riflettere con più attenzione. Grazie al professor Carlo Bulletti, grazie per essere stato con noi. Andiamo avanti, torniamo ancora all'estero. È ormai ufficiale, Al-Qaeda una nuova guida. La successione di Ayman al-Zawahiri a Osama Bin Laden era ormai quasi del tutto scontata, nonostante le speculazioni che erano state fatte dopo l'uccisione del leader di Al-Qaeda. Zawahiri è il braccio destro di Bin Laden da molti e molti anni, perlomeno dalla fine degli anni Ottanta, quando i due si incontrarono e fecero in qualche modo un accordo di collaborazione, si ritrovarono insieme tra l'altro a Peshawar in Pakistan, dove vivevano tutte e due sotto lo stesso tetto. Addirittura fu proprio Zawahiri, egiziano, a presentare a Osama Bin Laden il dottor Al-Zaman palestinese, che erano dei maggiori ideologi allora della jihad, della guerra santa. Quindi l'unione tra i due era in qualche modo l'intesa tra Zawahiri e Biden è quasi sempre stata completa, anche se qualcuno ha sempre voluto vedere nelle origini egiziane di Zawahiri in qualche modo una parte di Al-Qaeda, quella più internazionalista, che in qualche modo si opponeva a quella di origine saudita capeggiata da Bin Laden, ma non è così, erano tutte speculazioni. Alla fine Zawahiri è diventato, come previsto, il successore di Bin Laden. E il ritratto era di Alberto Negri. Si potrebbe presto pagare per entrare al Duomo di Milano, introdurre un piccolo obolo d'ingresso per i turisti per far fronte alle sempre crescenti spese per la manutenzione della cattedrale. Ci sta pensando la veneranda fabbrica del Duomo. L'annuncio questa mattina a margine della presentazione dei lavori di restauro della guglia maggiore del Duomo di Milano. Parliamo di calcio scommesse. Si allungano i tempi per la decisione sull'istanza di scarcerazione presentata dall'ex portiere della Cremonese, ora del Benevento, Marco Paoloni. A quanto si è saputo, il GIP Guido Salvini intende interrogare nuovamente il calciatore. Ma intanto a far parlare in queste ore è l'Inter. E a questo punto chi resta? Dopo l'addio di Leonardo, che andrà dietro una scrivania del Paris Saint-Germain per la modica cifra di 5 milioni di euro, la domanda che si fanno i tifosi dell'Inter è questa: chi resta? E non parliamo solo della panchina, ormai diventata radioattiva, visto che il prossimo sostituto di Leonardo sarà il quarto allenatore in 12 mesi. Si parla di Marcelo Bielsa, 55 anni, un argentino tutto d'un pezzo, gradito a Zanetti e compagni, che però ha un difetto: non allena da 13 anni. Lo chiamano il loco, il matto, perché fa sempre di testa sua. Si vedrà. Nell'attesa del loco bisognerà vedere cosa faranno anche quei big come Maicon, Schneider e da ultimo anche Eto'o, presi da un'improvvisa voglia di cambiare aria. Forse sarà lo smog. Da Milano e soprattutto dall'Inter vogliono tutti andare via. Moratti non vuole trattenere nessuno, però il pericolo che il nuovo allenatore si ritrovi come Benitez l'anno scorso non è infondato. Dario Ceccarelli, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E GR24 vi aspetta alle 14. Filippo Reggi in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.